Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buon inizio settimana a tutti. Oggi ritorniamo su tutto quello che bisogna sapere per fare la richiesta del bonus straordinario per i nuclei familiari a basso reddito. Per questi interventi di sostegno, per questo intervento di sostegno, qualora si fosse nelle condizioni di richiederlo e ottenerlo, adesso bisogna tenere d'occhio il calendario. La prima scadenza, la prima data chiave è quella del 28 febbraio, che è sabato, quindi probabilmente poi sentiremo i nostri interlocutori. La scadenza da tenere sotto controllo in realtà il giorno prima, il 27, quindi venerdì, e deve sfruttarla chi vuole far valere il periodo d'imposta 2007. Ma i punti da chiarire in realtà sono molti, perché a fine mese arrivano anche i CUD, cioè la certificazione della nostra dichiarazione dei redditi per lo scorso anno da parte delle aziende, e magari si scopre che è meglio far valere, per fare richiesta del bonus, il periodo d'imposta dello scorso anno, cioè del 2008, per cui anche qui bisogna avere un aiuto per capire che cosa è meglio fare. La domanda per il bonus va presentata al proprio sostituto d'imposta, quindi il datore di lavoro o ente pensionistico, ma in alcuni casi anche direttamente all'Agenzia delle Entrate. Oggi, per rispondere alle vostre domande sul bonus, Salva Danaio ha aperto un personalissimo CAF, un centro di assistenza fiscale, che in realtà sarà animato, presidiato da Paolo Conti, direttore generale del CAF ACLI, il centro di assistenza fiscale delle ACLI per lavoratori dipendenti e pensionati, e da Stefania Trombetti, responsabile fiscale CAF della CGL. Potete scriverci telefonarci all'800240024, scriverci al 349-238-6666, tutte le domande che ancora frullano nella vostra testa, se siete ancora indecisi se presentare o meno la domanda per l'erogazione di questo bonus, anche perché il governo ha conteggiato un bel po' di intervento dal punto di vista economico, ma in realtà in base alle domande che stanno arrivando e anche le richieste di intervento, di assistenza che stanno arrivando ai CAF, in realtà molte poche famiglie in questo momento stanno inoltrando appunto la domanda, e quindi se siete indecisi perché ritenete che magari non è così, anche dal punto di vista economico, un intervento interessante, insomma raccontateci anche le vostre perplessità se vorrete questa mattina. I numeri ve li ho ricordati, adesso direi di andare a dare un'occhiata alla borsa, che oggi vive una giornata di recupero dopo quella invece da dimenticare di venerdì scorso. I temi sono sempre gli stessi: l'incertezza economica e soprattutto le turbulenze nel comparto bancario. Il quadro è il seguente: Parigi sta salendo dell'1,28%, Francoforte dell'1,32%, Londra più 0,6%, l'S&P MIB a Piazza Affari in rialzo dell'1,88%. La partenza era stata un po' più brillante per le borse europee, guadagnavano quasi 2 punti, adesso c'è un rallentamento, anche Milano guadagnava 2,5 punti, rallenta anche Piazza Affari, però il forte accento rimane ancora sul comparto bancario, con Unicredit e Intesa che stanno trainando la seduta con un rialzo rispettivamente dell'8% e del 5,28%, quindi i due titoli che sono stati fortemente di nuovo penalizzati la settimana scorsa oggi rimbalzano abbastanza vigorosamente sulla scia dello scampato pericolo di nazionalizzazioni di cui si era tanto parlato negli scorsi giorni. Adesso invece c'è il via libera europeo all'utilizzo dei cosiddetti Tremonti Bond per ricapitalizzarsi, per ripatrimonializzarsi, e questa è la via migliore appunto secondo le interpretazioni del mercato. Anche il Banco Popolare cresce del 3,64%, oggi c'è un bel recupero anche per Enel, più 3,47%, Ubibanca più 2,52%, Fondiaria più 2,34%. Abbiamo invece in calo Pirelli meno 2,60%, Italcementi meno 2,43%, Seat pagine gialle dopo aver presentato il suo piano industriale sul quale era rimbalzato, il titolo oggi riperde di nuovo meno 2,36%, Lottomatica meno 1,64%. Il mercato oggi tra l'altro è in attesa dell'annuncio di una grande operazione di fusione, quella fra Generali e Alleanza, e i due titoli, in attesa della comunicazione formale al mercato di questa notizia, sono sospese, le due società appunto, i titoli sono sospesi dalle contrattazioni. Abbiamo l'euro sul dollaro a 1,28,28, direi che per adesso possiamo lasciare la borsa e andare subito al tema di questa mattina. Ritorniamo sul bonus straordinario per le famiglie a basso reddito. ultimi giorni utili per presentare la domanda per accedere al bonus famiglia. Sabato 28 febbraio scade infatti il primo termine per chi è interessato a ottenere il beneficio varato dal governo sulla base del reddito 2007. E si inizieranno anche a fare i conti sul numero di domande arrivate ai sostituti di imposta. Secondo le prime stime, le richieste pervenute ai soli centri di assistenza fiscale avrebbero già superato 1,5 milioni. Il bonus famiglia prevede aiuti che variano da 200 ai 1000 euro a seconda del reddito e delle persone che compongono il nucleo familiare. Gli anni d'imposta che possono essere presi a riferimento sono il 2007 e il 2008. Nel primo caso, il termine entro cui presentare la domanda al datore di lavoro, se è sostituto di imposta, o all'ente che eroga la pensione, è dunque il 28 febbraio. Se il datore di lavoro non svolge il ruolo di sostituto di imposta, la richiesta può essere inviata in via telematica direttamente all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile. Per chi invece dovesse scegliere come anno di riferimento il 2008, le domande devono essere inviate al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 31 marzo o direttamente all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno. Per quanto riguarda la platea dei destinatari, ricordiamo che il bonus, riservato alle famiglie con reddito complessivo compreso fra 15 e 35 mila euro, si rivolge anche a nuclei familiari con persone disabili, anche se non si tratta dei figli del richiedente, e agli extracomunitari, purché residenti in Italia, anche se i familiari a carico vivono all'estero. Nessun beneficio doppio, invece, per genitori separati o non sposati. E sempre in tema di aiuti alla famiglia, bisogna ricordare che sabato scade anche la proroga per richiedere i 120 euro di arretrati della Social Card relativi a ottobre, novembre e dicembre 2008. Per i destinatari della carta acquisti, che sono gli anziani con almeno 65 anni e le famiglie con bambini minori di 3 anni con reddito basso, sono previsti, oltre ai 120 euro, gli 80 euro per i primi due mesi del nuovo anno. 800 24 0024, numero verde per i vostri interventi, e vedo già una bella fila di prenotazioni al nostro numero verde, quindi segno evidente che abbiamo colto nel segno anche questa mattina. C'è bisogno di continuare a fare un po' di informazione sulle modalità con cui questo bonus viene erogato, ma soprattutto sulle modalità con cui bisogna fare richiesta. Allora, saluto e ringrazio di essere con noi Paolo Conti, direttore generale del CAF Acri. Dottor Conti, buongiorno e grazie di essere di nuovo con noi per affrontare ancora una volta questo argomento. Il vostro aiuto è preziosissimo, così come quello di tutti i CAF che sono in questo momento assolutamente presidiati, immagino, da molte famiglie che chiedono informazioni su questo argomento. Che cosa ci può raccontare a questo proposito, Conti? Certo, abbiamo avuto un grandissimo movimento già a partire dai primi giorni dell'anno. Sapete che la pubblicazione della modulistica è della fine del 2008. Quello che notiamo statisticamente, la tendenza è che in realtà è sì questo un bonus straordinario per le famiglie a basso reddito, però la maggior parte di questi bonus che vengono oggi accreditati, che saranno oggi accreditati, è però riferito a famiglie con un numero molto basso di componenti, una o due persone. La maggior parte delle domande che stiamo accertando e che stiamo accreditando in questo periodo è fatto da pensionati monoreddito e da eventualmente da famiglie fatte da due componenti. Le percentuali si riducono molto per i componenti superiori a 3 o 4 o 5, perché i limiti di reddito sono molto bassi. I limiti di reddito sono bassi, e quindi magari insomma si ha la sensazione a volte di, come dire, fare magari una richiesta che poi non andrà a buon fine, per cui ci si scoraggia anche un po'. Allora saluto e ringrazio di essere con noi anche Stefania Trombetti, responsabile fiscale CAF CGL. Trombetti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Alle prese invece in questo caso con una marea di corsi di formazione in questo periodo, proprio per, immagino, Trombetti, addestrare tutti i vostri CAF alla migliore informazione possibile che in questo momento deve essere data a quelle famiglie che probabilmente potrebbero aver diritto a questo bonus. Voi che tipo di osservatorio ci può raccontare, ci potete raccontare appunto in un periodo come questo? Quali sono, secondo quello che avete potuto rilevare, le famiglie che vengono a chiedere informazioni sul bonus? Ci diceva Conti delle ACLI, soprattutto nuclei familiari contenuti, quindi i più piccoli praticamente. Ma guardi, noi abbiamo concordo in parte con le osservazioni che faceva il collega delle ACLI. Effettivamente ci sono anche situazioni molto diverse sul territorio nazionale. il nord piuttosto che il sud ha realtà socio-economiche diverse e quindi di conseguenza anche rispetto al bonus condizioni diverse. Certo è che i nostri uffici hanno sopportato, se vogliamo, anche il disagio di vedersi arrivare tantissime persone e a molti, chiaramente per le condizioni in alcuni casi molto restrittive, abbiamo dovuto dire di no, nel senso che non avevano diritto. Mm. Il disagio maggiore, diciamo che l'abbiamo avuto per quello che riguarda il cambiamento in qualche modo o i chiarimenti che in qualche modo sono arrivati in corso d'opera, perché affrontare le persone, faccio riferimento per esempio alla condizione del portatore di handicap, che è stata chiarita solo con la circolare, quando invece precedentemente era stata data un'indicazione diversa. La famosa circolare 2E dello scorso inizio di febbraio dell'Agenzia delle Entrate. Esattamente. Allora, lei capisce che una circolare che entra, cioè viene emanata quando questa attività era già iniziata da parecchio tempo, quantomeno nel dare informazioni alle persone, può in qualche modo avere poi escluso dei soggetti, e questa è la nostra preoccupazione, potrebbe essere che a qualcuno abbiamo detto di no e invece magari alla luce della circolare aveva diritto. D'altronde, Trombetti, questi sono, come dire, i disagi fisiologici che si corrono, i rischi che si corrono quando si decreta d'urgenza per affrontare una situazione che rischiava a dicembre veramente di sfuggire di mano, perché si è come palesato improvvisamente, e forse non tanto improvvisamente, un disagio economico abbastanza evidente, lo si vedeva dai consumi, c'era tutta la problematica dei mutui, per cui era abbastanza naturale aspettarsi poi che dopo una decretazione d'urgenza arrivassero tutti i regolamenti attuativi e tutte le precisazioni per quello che riguarda il bonus dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS, che certo hanno generato un po' di problematica che poi concretamente affronta la gente e deve dare delle indicazioni pratiche di comportamento. Cerchiamo però, come dire, di così anche noi fare quello che dobbiamo fare con l'informazione, quindi il corso d'opera che andava modificandosi lo abbiamo seguito costantemente e adesso ragioniamo su quello che abbiamo, magari richiamando anche l'attenzione di chi ha fatto la domanda una volta e non ha avuto una risposta positiva. Lei dice che insomma per qualcuno possono essersi riaperte le possibilità? Beh, sicuramente sì, perché chi aveva un familiare a carico disabile diverso dai figli potrebbe avere diritto al bonus di 1.000 euro con un reddito di 35.000 euro e magari invece nella situazione precedente è stata fatta la domanda per un importo più basso perché non veniva riconosciuto il portatore di handicap. Quindi insomma parliamo di casi di disagio. Poi io capisco l'urgenza e capisco, però in molti casi siamo di fronte alla emanazione di norme, non solo in questo caso, è di questi giorni la proroga per esempio del bonus energia, sì, con l'ipotesi anche qui di un cambio della modulistica. Allora, quelli che hanno in questi giorni fatto, come vanno trattati? Questo è un po' a volte il disagio che si vive quando le norme magari vengono poi modificate in corso d'opera e quando soprattutto coinvolgono migliaia di persone, infatti, che nella stragrande maggioranza dei casi sono anche le persone con maggiori difficoltà. Noi testiamo anche, lo abbiamo testato anche con tutte le novità che sono arrivate a proposito delle famiglie che hanno diritto al riconoscimento della restituzione dei tassi di interesse sui mutui a tasso variabile superiore al 4%, anche lì una situazione che cambia e si evolve in continuazione, sulla quale però noi cerchiamo insomma di fare il nostro dovere e informare. Intanto speriamo di aver sollecitato appunto l'attenzione di chi ha fatto un primo viaggio magari ad un CAF inutilmente con una risposta negativa, magari speriamo oggi di sensibilizzarlo sul ritorno ad un CAF per riverificare la situazione. Tra l'altro, Paolo Conti, la famosa circolare che citava anche prima Stefania Trombetti, ha chiarito anche molti aspetti relativamente alla situazione degli stranieri residenti in Italia con famiglia all'estero. Sì, assolutamente, questo è un'altra grandissima parte di soggetti per i quali sembrava in un primo momento che non si potesse avere diritto al bonus nel caso in cui i figli fiscalmente a carico fossero residenti all'estero. Ora è stata invece equiparata la possibilità di avere il bonus, ma l'importante è che i figli siano a carico, dunque che rispettino le condizioni per essere considerati fiscalmente, fiscalmente a carico. Questo fa sì che tantissimi lavoratori extracomunitari avranno diritto al bonus, mentre prima invece ne venivano esclusi. Infatti. Allora, io direi di entrare nel vivo della nostra trasmissione, di animarla ulteriormente con i casi dei nostri ascoltatori, poi ovviamente torneremo anche alla questione della scadenza di fine mese, quindi chi deve sbrigarsi in questi giorni ad inoltrare la domanda al proprio sostituto d'imposta, che tra l'altro insomma inoltrando la domanda a fine mese si ha diritto al ricevere all'erogazione del bonus il mese successivo in marzo, per cui è un aiuto che arriva anche in tempi più o meno rapidi, poi dipende dai punti di vista, però bisogna capire anche lì se vale la pena farla a fine mese per far valere il periodo d'imposta 2007 oppure aspettare far valere il periodo d'imposta 2008. Sentiamo però il caso subito di Claudio da Milano, che saluto. Claudio, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Due domandine velocissime riguardo a mia madre. Allora, sì. Lei vive da sola, fa nucleo familiare a sé. Nel 2007 ha avuto un CUD di 14.900 euro circa, penso rientri nei 15.000, per cui con un bonus di 200 euro. Sì. Dichiarando eventualmente il 2008 sicuramente sforerebbe, non andrebbe bene. Prima domanda è, va bene comunque aver dichiarato quello del 2007 pur sforando eventualmente nel 2008? E soprattutto questo volevo sapere, lei è invalida al 100%, mi hanno detto che si può fare richiesta fino a 35.000 euro di redditi per un bonus di 1.000 euro per una persona che è invalida che faccia parte della famiglia, quindi esatto. Un richiedente con la persona invalida a casa dovrebbe lo può essere, fare. Dovrebbe essere certo. Lei da sola invece che vive appunto per suo conto e farebbe richiesta per se stessa pare che sia invece un problema, come funziona? Allora Claudio, la ringrazio, lei racchiude insomma nella sua domanda diversi aspetti. Conti, vengo ritorno da lei per questa domanda. Allora, dunque teoricamente in base, come dire, all'aspetto reddituale percepito nel 2007, la nostra ascoltatrice avrebbe il diritto ad ottenere il bonus da 200 euro, no? Sì, se il CUD è sotto i 15.000 euro e nell'ipotesi che la signora non sia proprietaria dell'abitazione principale, che ricordiamo in questo caso ha un reddito che va sommato a quello del CUD come rendita catastale, il fatto di aver fatto domanda con il reddito 2007 al di sotto dei 15.000 euro dà diritto a un bonus di 200 euro, anche se poi nel 2008 questo tetto è stato superato. Sì. E purtroppo per le famiglie monoreddito l'indicazione che hanno dato all'ascoltatore per quanto riguarda l'impossibilità di avere il bonus a 1.000 euro per i soggetti portatori di handicap è corretta, cioè si parla di reddito di 35.000 euro come nucleo familiare e di bonus a 1.000 euro, ma solo nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare soggetti portatori di handicap ad esclusione del soggetto che presenta la domanda. Per cui il soggetto che presenta la domanda nel caso della signora è un soggetto che ha un nucleo familiare composto solo dalla sua persona e pertanto viene esclusa dal beneficio dei 1.000 euro ma viene ricompreso in quello dei 200. Ecco, l'aspetto della titolarità dell'appartamento nel quale si abita e quindi il rapporto con l'erogazione del bonus è un aspetto che ci chiede di chiarire anche Luigi da Milano, allora magari soffermiamoci un altro minuto su questo aspetto per poi ritornare magari anche sugli altri con l'aiuto di Stefania Trombetti. Luigi da Milano, sì. Grazie per avermi richiamato. Grazie a lei Luigi. Allora, io sono proprietario di due appartamenti, uno lo abito e uno l'ho dato in affitto, a 700 euro al mese. Mi sono presentato presso un CAF, però non mi hanno saputo dare una risposta precisa, esatta, perché ero in attesa di informazioni che dovevano arrivare dal Ministero. Lei abita da solo Luigi intanto, è titolare... Abito da solo, non ho redditi di nessun tipo tranne quello dell'appartamento affittato. Quindi nessuna pensione? Assolutamente no. È perché questo è anche un aspetto da chiarire. Paolo Conti. Sì, no, l'ascoltatore in questo caso viene escluso per due motivi. Primo, non ha appunto un reddito di lavoro dipendente, di pensione o assimilati e pertanto non può avere diritto al bonus. In secondo luogo, non potrebbe averne diritto anche perché ha un reddito di immobili che superi i 2.500 euro, che è l'altro limite massimo per il quale possiamo avere diritto al bonus. Il signore ha 700 euro di affitto, sono dunque una al mese, dunque anche in questo caso supererebbe il limite massimo consentito, per cui l'ascoltatore non ha diritto a nessun tipo di bonus. Ci dispiace Luigi darle questa cattiva notizia, però insomma i termini della legge sono piuttosto chiari, quindi cerchiamo insomma di dare delle informazioni concrete in base anche proprio ai limiti legislativi che dobbiamo assolutamente rispettare. Salva Danaio ritorna, questa mattina ritorna sugli aiuti alle famiglie che sono stati decisi dal pacchetto anticrisi del governo di dicembre, pacchetto convertito in legge di recente, e quindi oggi spieghiamo un po' come si fa ad accedere a queste misure di sostegno, a questo famoso bonus straordinario, un bonus una tantum, ricordiamolo, insomma viene erogato una sola volta e il suo importo dipende sia dalle nostre condizioni reddituali ma anche dalle condizioni, dalla composizione del nostro nucleo familiare. Ci sono tanti scaglioni di reddito da considerare, tanti, non sono tanti, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esattamente, e a seconda della condizione familiare e reddituale si ha diritto evidentemente ad un bonus di importo diverso. Con noi questa mattina Stefania Trombetti, responsabile fiscale CAF CGL, Paolo Conti, invece direttore generale del CAF delle ACLI. Stefania Trombetti, allora abbiamo parlato prima di questa scadenza di fine mese, abbiamo parlato del 28 febbraio che in realtà è sabato e quindi forse la scadenza utile è quella del 27 febbraio di venerdì prossimo, data entro la quale dobbiamo andare dal nostro sostitutore imposta e presentare la documentazione per ottenere questo bonus, ma dobbiamo rispettare questa scadenza solo se il periodo d'imposta che vogliamo far valere è quello di 2 anni fa. Esattamente, esattamente. Se il contribuente ritiene di voler far valere il reddito complessivo del 2007 e il nucleo, i componenti del nucleo del 2007, premesso che comunque nel 2008 le condizioni le deve avere, e allora può, presentando al sostituto d'imposta entro il 28 febbraio il modulo di domanda, ricevere poi il bonus nel mese di marzo, anche se per quello che riguarda in particolare gli enti pensionistici, esatto, hanno già detto che molto probabilmente nel mese di marzo non saranno in grado di liquidare le domande ricevute, quindi andranno al mese successivo. Esattamente. Ecco, tra l'altro, quando il beneficio non è erogato da sostituti d'imposta, per esempio c'è il caso di molti collaboratori familiari, no, che hanno diritto dal punto di vista economico a questo bonus, ma naturalmente una famiglia presso la quale prestano il loro lavoro non può essere considerato un sostituto d'imposta, e questo è uno dei casi in cui ci si può rivolgere direttamente all'Agenzia delle Entrate, Trombetti. Direttamente all'Agenzia delle Entrate tramite il CAF, naturalmente, perché la presentazione è telematica, quindi il modello può essere di domanda, può essere appunto presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate tramite gli intermediari abilitati, e in questo caso possono presentarlo entro la fine di marzo. Entro la fine di marzo, o addirittura io avevo anche una data il 30 aprile. No, allora sempre in riferimento ai redditi 2007. Ah, certo. Esatto. Ecco, la circolare, anche qui con una circolare è stato ipotizzato il 30 aprile, però la norma in origine dice 30 marzo. Perché io avevo questa data nella famosa guida e bonus che è uscita con il Sole 24 Ore lunedì scorso, il beneficio se non è erogato da sostituti d'imposta, la presentazione delle domande all'Agenzia delle Entrate va fatta entro il 30 aprile 2009. Purtroppo in questo caso cosa è successo? Che nella trasformazione in legge del decreto 185 è stato modificato il termine di presentazione al sostituto, 28 febbraio. Era 31 gennaio, è stato spostato al 28 febbraio, termine di presentazione al sostituto nel caso di richiesta in riferimento al 2007. Esatto, di conseguenza. Ma contemporaneamente non sono state modificate le date successive, quindi le date dei pagamenti e le date di consegna all'agenzia. Sono state date per scontate che anche in questo caso subissero una proroga. E quindi, però sa, una modifica di data che è stata prevista da una norma deve essere fatta con un'altra norma, non può essere fatta con una circolare. Senza dubbio che se l'agenzia con una circolare dice, come ha detto, le prendiamo fino ad aprile, le accoglieranno chiaramente fino ad aprile. Però vede, anche questi aspetti sono un attimino critici, ma in ogni caso diciamo che solo la domanda poi tramite l'agenzia deve essere fatta solo nel caso in cui un soggetto eventualmente non abbia un sostituto e voglia, come nel caso che faceva appunto lei, dei collaboratori familiari, delle colf, badanti, eccetera, e voglia chiedere il beneficio per l'anno 2007. Allora, sentiamo Lorenzo da Brescia che invece ci chiede di rimettere dei paletti anche su un altro aspetto, insomma, fondamentale di tutta la questione. Lorenzo? Sì, buongiorno, grazie alla trasmissione. Appunto io ho approfittato di questa cosa. E niente, allora io ho reddito unico, lavoro solo io, ho due figli e la moglie a carico, è un mutuo da pagare. Io praticamente sono due figli, però in pratica sono tre, perché uno al primo matrimonio che passo gli alimenti e sottolineo al figlio e non alla moglie 200 euro. Sì. Però adesso non mi ricordo più il reddito quale sia che non bisogna superare. Ecco, volevo sapere se rientrava anche gli alimenti che si potevano detrarre o cose. Poi un'altra cosa velocemente volevo dire, che dal mio parere un po', secondo me, passatemi il termine, queste cose dei bonus mi danno un po' a canne porci, perché adesso permettetemi il termine, perché se due lavorano e hanno un figlio, lavorano tutti e due, non superano il reddito, però prendono 20-22 mila euro. Se io supero il reddito, però ho un mutuo di 900 euro, sì, praticamente è la metà, per 30 anni devo pagare il mutuo. Praticamente percepisco no, Lorenzo, lei ha ragione, però ci sono le detrazioni fiscali sul mutuo, quindi insomma quello comunque è un aspetto anche da considerare. Io capisco, non è la prima persona che si lamenta sui tetti di reddito, che evidentemente escludono una platea vastissima di persone a cui comunque farebbe molto comodo il bonus. Magari sforano il tetto massimo solamente per 1000 euro, come nel suo caso. Comunque a questo, Lorenzo, lei, poi prendiamo atto di tutte le perplessità di molti di voi, e mi riferisco anche a coloro che continuano a dire, insomma, questo bonus viene erogato anche ai cittadini stranieri che hanno le famiglie all'estero. Vabbè, però sono cittadini stranieri che in Italia lavorano, che contribuiscono anche alla crescita e alla ricchezza del molto paese. Ci metto anche che sono molto spesso anche lavoratori che fanno lavori, non vorrei essere una qualunquista, che molti italiani non vogliono fare, per cui se sono in regola, se sono nel nostro paese con tutte le carte in regola, non vedo per quale motivo non debbano essere considerati anche cittadini italiani al 100%. E non crediate che siano molto felici di avere magari la famiglia lontana e che devono mantenerla da qua. Detto questo, lasciamo da parte la polemica. Lorenzo da Brescia, Paolo Conti mi aiuta un po' a chiarire il termine della sua situazione, è un nucleo familiare, tra l'altro non mi ricordo se ci ha detto anche il tetto massimo del reddito. Conti, a lei se lo ricorda? Io, no, mi sembra che non abbia. Comunque ricordiamo, lui ha un nucleo familiare di due figli, quindi è un nucleo familiare di quattro e moglie a carico. Euro, ecco, come limite massimo per avere diritto all'erogazione del bonus. Però lui diceva mantiene anche l'altro figlio, ma questo non significa che sia a carico? Infatti non ho capito se lui dà una mano all'altro figlio, che a sua volta, a quanto ho capito, è sposato e paga gli alimenti per il figlio, per il nipote praticamente dell'ascoltatore. Comunque bisogna considerare questo, cioè il nucleo familiare è quello composto dal coniuge e dai figli che sono fiscalmente a carico, cioè i figli che non hanno redditi superiori ai 2840 euro. Se all'interno della famiglia sono presenti altri figli che hanno però un reddito personale sopra questa soglia, questi costituiscono un altro nucleo familiare a parte, su cui dover andare a calcolare a questo punto l'eventuale possibilità di erogazione del bonus. Per quanto riguarda gli assegni di mantenimento per i figli, questi comunque non sono deducibili, di conseguenza non possono essere considerati come una riduzione del reddito lordo, come chiedeva l'ascoltatore. Sì, infatti, speriamo di essere stati chiari. Tra l'altro, invece, Conti, la sua interpretazione sulla questione che affrontavamo prima con Stefania Trombetti, quando il beneficio non è erogato da sostituti d'imposta, secondo lei comunque il termine entro il quale presentare la domanda è il 30 aprile? No, io concordo con la collega per quanto riguarda il fatto che non è stata inserita, non è stata fatta una nuova legge che va a modificare le scadenze. L'Agenzia delle Entrate, a tutti gli effetti, con la circolare comunica 30 aprile e lo ribadisce anche all'interno, per esempio, del sito internet dell'agenzia stessa, sì, con scadenza al 30 aprile appunto la comunicazione telematica agli stessi. Mi è già successo altre volte che scadenze siano state modificate attraverso comunicati stampa o addirittura e anche attraverso circolari, purtroppo sta diventando quasi un'abitudine, per cui io ritengo comunque che il 30 aprile possa essere sicuramente il termine ultimo per consegnare, se vogliamo far valere il reddito 2007, la documentazione all'Agenzia delle Entrate, il file all'Agenzia se non abbiamo il sostituto d'imposta, naturalmente questa è la via da perseguire se dobbiamo rivolgerci solo all'Agenzia delle Entrate, giusto? Potremmo avere anche il sostituto d'imposta, ma non vogliamo farlo attraverso il sostituto, magari d'imposta ha un numero di dipendenti così limitato, magari siamo l'unico dipendente di quel sostituto e non, il sostituto non ha trattenuto, non è in grado comunque di liquidare il bonus, allora questo è uno dei quei casi classici in cui a tutti gli effetti si può utilizzare la via del rimborso tramite la tra l'altro le racconto anche quello che ci è successo lunedì scorso, ci ha chiamato un ascoltatore che ci ha chiesto: ma fare la domanda al sostituto d'imposta è un obbligo o è una facoltà? Perché io col mio datore di lavoro non voglio niente ad avere a che fare, per cui lui piuttosto riceve in ritardo, pur avendone diritto, il bonus, perché l'Agenzia delle Entrate ovviamente procrastina anche i termini per l'erogazione diretta del bonus, dice però piuttosto preferisco quel canale lì in luogo del datore di lavoro direttamente. Vabbè, poi ognuno fa la sua scelta, a patto che sappia però che l'erogazione avviene con qualche mese di ritardo secondo i termini di legge. Allora, Stefania Trombetti, responsabile fiscale CAF CGL, ho dato la risposta io all'ascoltatore che ci chiedeva, insomma, ho lavorato nel 2008, non ho ancora il CUD, teoricamente entro qualche giorno arriva, nessuno lo ha già ricevuto al momento? No, nessuno l'ha già ricevuto, la norma prevede che debbano essere consegnati ai lavoratori o ai pensionati entro il 28 febbraio. E quindi lì, tra l'altro, molti scopriranno se nel 2008 hanno percepito un reddito che può essere fatto valere proprio per fare la richiesta anche del bonus, no? Certo. Chiaramente in quel caso poi i termini sono diversi, ecco, se uno fa la richiesta sulla base del reddito 2008. Le faccio sentire una domanda di Giuseppe dalla provincia di Roma che aspetta da un po'. Giuseppe, benvenuto a Salvadanaio. Buongiorno, signora Rossani. Allora, sono pensionato monoreddito, invalido civile 100%, percepisco la pensione di invalidità e l'accompagno. Sì. Volevo sapere se c'è stato un cambiamento rispetto a questo servizio che Giuseppe, io la sento malissimo. Allora, noi proviamo a richiamarla adesso, così le faccio fare per bene la sua domanda. Eventualmente cerco poi di ricostruirla io adesso, però per correttezza la proviamo a richiamare, perché qua sentivamo come se fosse veramente da un altro pianeta, un po' extraterrestre. Allora faccio sentire invece la domanda di Ornella da Trento. Ornella. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. La mia domanda è questa. Per un nucleo familiare di una persona non pensionata ma lavoratore, sì, con un reddito inferiore naturalmente a quello che è indicato, è previsto un incentivo bonus o no? Allora, Stefania Trombetti, mi pare che in questo caso debba essere esclusa, no, questa eventualità? Esatto, è escluso in quanto il nucleo familiare composto di una sola persona, per avere diritto al bonus, quella persona deve comunque percepire un reddito da pensione. In questo caso sarebbe il limite del reddito da considerare, i famosi 15.000 euro e l'importo del bonus da 200, per cui Ornella, mi spiace, dobbiamo rispondere di no anche a lei. Marco da Cagliari, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi. Dunque, la mia domanda vorrà essere questa, molto breve. Dunque, io sono da solo e ho collocato presso di me mio figlio minorenne che ha 13 anni. Sì. Dunque, nel 2007 e 2008... Collocato nel senso, Marco, che è a carico suo? È a carico mio, sì. Precisamente a carico mio. E niente, nel 2007 e 2008 per varie vicissitudini ho presentato il l'ISE che è inferiore purtroppo alla somma che sappiamo bene, voglio dire, quale è purtroppo inferiore. Volevo sapere se avevo diritto a richiedere il bonus, sì o no. Marco, guardi, per l'erogazione di questo bonus non è l'ISE, la documentazione con la certificazione appunto necessaria, bisogna banalmente considerare i redditi percepiti in questi anni. Paolo Conti ci aiuta, l'ISE vale per la famosa social card? Per esempio, per tante altre agevolazioni però nel caso del bonus famiglia, in questo caso bisogna tenere conto solo del reddito lordo, per cui 17.000 euro per una famiglia fatta con di due componenti. Quindi abbiamo ancora Marco da Cagliari, Pietro? Lo abbiamo... Marco, c'è ancora? Sì, ci sono. Quindi lei ci può dire, no, non so se siamo stati chiari, ci può dire qual è il reddito che ha percepito in questi due periodi e quindi da lì può capire se vale la pena fare la domanda o no? Siamo sui 15.000. Quindi Marco, allora la faccia, provi ad andare, non provi, insomma, al suo... No. Tra l'altro, Conti, dove la prendiamo la documentazione per fare la domanda? La prendiamo o dalla dichiarazione dei redditi o dal modello CUD dell'ascoltatore. Non quella che certifica il reddito, la documentazione per fare la domanda del bonus. La documentazione per fare la domanda dei bonus si può prelevare sul sito internet dell'agenzia, altrimenti andando in qualsiasi CAF viene risposta automaticamente e viene fornita direttamente al contribuente. Ovviamente le aziende non sono state chiamate ad attrezzarsi per aiutarci. Non credo proprio. Guardate, dice lei. Sì, esatto. Va bene, quindi Marco si faccia un giro ad un CAF e vedrà che secondo me in base ai parametri e familiari e reddituali lei ci sta dentro. Elena da Pescara, benvenuta. Ah no, scusi Elena, c'è Giuseppe da Roma che abbiamo prima accantonato perché non lo sentivamo bene, lo abbiamo recuperato però. Giuseppe. Eccomi, signora Rossani. Oh, molto meglio adesso, per fortuna. Allora, le dicevo, allora sono pensionato con la pensione sociale, in più si aggiunge il diritto di accompagno. Sì. Sono proprietario dell'appartamento in cui abito. Mm-hmm. Ecco, volevo sapere che cosa è stato cambiato nel recente circolare circa il fatto che il diritto d'accompagno sia faccia parte del reddito. Lei vive da... Grazie. Solo, Giuseppe, mi scusi che non ho capito. Vivo da solo. Sì. Nell'appartamento in cui abito, è mio. Ma è quello che percepisce, non ho capito, oltre alla pensione sociale è anche un... perché leggevo dal monitor un assegno di invalidità. Esatto, il diritto d'accompagno. Va bene. Allora, Stefania Trombetti, ci aiuta con Giuseppe? Sì, l'aiuto purtroppo per dire al signor Giuseppe che non ha diritto al bonus, nel senso che, allora, intanto l'assegno di accompagno presuppone un'invalidità, ma per quello che riguarda l'invalidità, il portatore di handicap non può essere il richiedente. Ma per avere diritto al bonus, con i 1.000 euro e 35.000 euro di reddito, deve essere portatore di handicap un familiare fiscalmente a carico. Nel caso del signore sta facendo nucleo da solo, monoreddito, e per di più la tipologia di reddito che ha, sia la pensione sociale che l'assegno di accompagnamento, sono due redditi esenti, quindi lui è come se non avesse reddito. Certo. Potrebbe essere considerato fiscalmente a carico di qualcun altro, ma allora dovrebbe far nucleo con qualcun altro. Con qualcun altro, non può essere lui richiedente. La ringrazio. Allora, tra l'altro, a proposito del tema che affrontavamo prima, entro quanto l'azienda è tenuta a consegnarci le CUD 2008, se siamo dei lavoratori dipendenti, lo abbiamo già ribadito entro la fine di questo mese, perché c'è un ascoltatore, Tonio da Lecce, che dice: il mio datore di lavoro mi ha detto che è tenuto a darmelo per legge entro fine marzo. Se è così, giustamente, dice, come faccio a capire se ho i requisiti per poter fare la richiesta e il tempo per poterla fare entro la scadenza del 31 marzo, qualora appunto volesse far valere il periodo d'imposta 2008. Paolo Conti, che gli ha detto qualcosa di sbagliato, immagino, il datore di lavoro, o c'è qualcuno che comunque lo può presentare il mese successivo ai propri dipendenti? Diciamo, il 31 marzo è una scadenza che avevamo qualche anno fa, infatti. Il 28 febbraio è la scadenza per consegnare ai propri lavoratori, ai propri dipendenti il modello CUD. Avviene spesso che questo poi tardi qualche giorno, soprattutto quando l'erogazione della busta paga magari avviene nel 10 del mese, allora spesso e volentieri viene consegnato contestualmente, ma questa è una prassi che non è infatti, contro la norma. Esatto, capito? Perché da due anni, se non ricordo male, esatto, sono cambiati i termini, sono stati anticipati, proprio perché, come dire, lo Stato vuole far cassa un po' prima. Elena da Pescara, buongiorno. Elena da Pescara non ci sente, allora andiamo a Pistoia da Luca. Luca, sì, pronto? Oh, lei ci sente, benissimo. Sì, la sento benissimo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. La mia domanda è semplice. La mia compagna ha presentato tutta la documentazione e rientrava per il 2007 nei parametri per poter avere il bonus. Sì. Solo che gli è stato risposto, gli è stato detto che... Da chi, ha, intanto? Dal CAF, a parte il rimpallo di tutti gli uffici che ha dovuto fare a causa del... Lo so, Luca, ma ha sentito anche cosa dicono i responsabili. Lei capisce che si sono mossi su una legge che modificava giorno dopo giorno la sua forma, per cui... Beh, a parte quel rimpallo lì, è stato detto che per il 2007, pur entrando nei termini... diciamo, non può ricevere il bonus perché non aveva reddito e gli è stato detto di presentare eventualmente per il 2008, visto che è riuscito a ottenere un lavoro, la domanda, perché rientri nei termini. Ora, volevo sapere, per la prima cosa, se è giusto che per il 2007, non avendo lei direttamente reddito, reddito non può avere il bonus. E in seconda battuta, essendo dettato al 2008, il termine ultimo di presentazione della domanda. Grazie Luca. Stefania Trombetti, ci aiuta? Sì, allora, per quello che riguarda la prima domanda, è vero, è così, nel senso che un richiedente deve comunque avere un reddito, che può essere un reddito da lavoro, da pensione, un assimilato, ma in ogni caso deve avere un reddito. E quindi, nel caso della signora, se nel 2007 non ha reddito, non può richiedere il 2007. Può invece richiedere il 2008 se appunto ha un reddito tra quelli previsti dalla norma, e lo può richiedere o al datore di lavoro, quindi o al suo sostituto d'imposta, oppure anche in questo caso all'Agenzia delle Entrate, o addirittura, ultima possibilità, anche attraverso la dichiarazione dei redditi, in particolare attraverso il modello 730, perché lei sa che con il modello 730 poi un eventuale rimborso l'avrà nella busta paga di competenza del mese di luglio. Allora, devo far sentire adesso una breve pillola e un'informazione di servizio. Vi ricordo che da domani trovate in edicola con il Sole 24 Ore il secondo volume della storia dell'economia mondiale dal titolo Dall'antichità al Medioevo, l'Occidente dei signori feudali e i commerci con l'Oriente. Ecco una pillola tratta da questo volume. I contadini della legge dei contadini pagavano allo Stato un'imposta chiamata extraordina, di cui ci sfugge la natura. Se un contadino trascurava il suo campo, i vicini avevano il diritto, ma non ancora l'obbligo, di usarne la terra fino a che il proprietario ricominciava a pagare la sua extraordina. La corrispondenza di uno scrittore anonimo della prima metà del IX secolo, identificato di solito per Ignazio Diacono, rivela il carattere di alcune imposte gravanti sulle terre della Chiesa. Si chiamavano sinone e sitarchia e venivano pagate in unità di grano nella forma più semplice di testatico. Alexander P. Kasdan. Grazie a tutti per essere stati con noi, a Paolo Conti e Stefania Trombetti in particolar modo. Il CAF virtuale di Salvadanaio oggi termina qui, ritorneremo naturalmente su questo argomento. Io sono in ritardo, devo salutarvi rapidamente, ci risentiamo domani. Buona giornata.